bambolina, dimmi di chi sei, siediti qui e accanto a me. Accanto a me. Dovrei parlare con la gente, forse anch'io cambierei, sai, ma poi non dico niente proprio con. Se mai potrò ricominciare tutta un'altra vita, bambolina, dentro gli occhi tuoi io leggo che sei sola come me.